Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il filosofo ed economista tedesco Friedrich Engels, fondatore con Karl Marx del materialismo storico e del materialismo dialettico, nel suo libro La situazione della classe operaia in Inghilterra parla diffusamente di quel fenomeno storico che sarà conosciuto con il termine di rivoluzione industriale. Il processo di evoluzione economica che porta da un modello basato prettamente sul sistema agricolo, artigianale e commerciale a quello industriale moderno è caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche. La rivoluzione industriale porta a una profonda e irreversibile trasformazione della società. L'apparizione della fabbrica e della macchina modifica la struttura stessa dei rapporti di lavoro, creando la classe operaia e il capitalismo industriale, e cambia per sempre le nostre vite con effetti positivi e negativi, come racconta Hip Hughes, professore ed esperto di storia mondiale dell'Università di Buffalo, New York. Il nuovo sistema basato sulle industrie produsse tonnellate di prodotti, abiti, beni di consumo che a quei tempi migliorarono la vita delle persone. Le fece vivere meglio, avere delle cose che normalmente sarebbero state appannaggio solo dei ricchi. Ci furono anche diversi aspetti negativi che noi avvertiamo soprattutto oggi, ma è un fatto indubbio che allora le famiglie delle classi medie e meno abbienti poterono avere dei comfort e anche curarsi, avere un'istruzione. Le numerose e importantissime scoperte tecnologiche hanno un ruolo determinante nell'evoluzione della società. La ferrovia, l'energia elettrica, il telegrafo e la dinamite nella prima fase della rivoluzione industriale dei primi anni dell'Ottocento e nella seconda fase, verso fine secolo, il telefono e l'automobile. L'intero quadro sociale dei paesi industrializzati cambia il suo volto, modificando alla radice secolari abitudini di vita e contribuendo a un rapidissimo cambio di mentalità e di aspettative delle persone. All'interno della rivoluzione industriale si può parlare di una sottorivoluzione, quella dei trasporti. La diffusione della ferrovia e la creazione graduale di una rete stradale dimezza i tempi di percorrenza, azzera in alcuni casi le distanze e i problemi ad esse connessi, facilitando i commerci e gli scambi, nonché i viaggi di persone e beni. Stiamo comunque parlando fondamentalmente di ferrovie e grandi navi a vapore. Un discorso completamente diverso vale invece per l'automobile. L'automobile è sicuramente una delle invenzioni fondamentali della storia dell'uomo, una delle più rivoluzionarie per gli effetti che ha sulla vita delle persone e sull'evoluzione sociale. Le tappe del suo sviluppo sono molteplici e caratterizzano un processo che non si è mai fermato e che continua tutt'oggi, con la realizzazione di modelli sempre più perfezionati, più performanti, belli e confortevoli. Ma vi è sicuramente una data precisa che rappresenta lo spartiacque decisivo nell'evoluzione non solo dell'automobile, ma anche e soprattutto delle nostre vite per come le intendiamo noi oggi. Quella data è il 1908. Oggi Destini Incrociati vuole raccontarvi la storia di un incontro, quello di due uomini che in questo preciso anno cambiano completamente il corso dell'umanità per sempre. Mio caro senatore, in questo momento ritorno dal mio campo di Desenzano con la sua macchina, che mi sembra risolvere la questione del sesso già dibattuta. L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza. Ma, per contro, delle donne ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza. Le stringo la mano. Così scrive Gabriele D'Annunzio al senatore Giovanni Agnelli Senior in una lettera datata 18 febbraio 1926. Nel manifesto del futurismo, stilato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti, infatti, l'automobile risulta maschile, ma il Vate ne cambia il genere, trovando le similitudini con il gentil sesso. E da quel giorno automobile è per tutti e per sempre un termine femminile. Dai tempi dello stravagante e poco agile carro di Cugnot, progettato nel 1769, che è da considerarsi il primo automobile della storia, fino ad arrivare al 1908, la data fondamentale di cui parlavamo poco fa, tutte le auto prodotte al mondo hanno un comune denominatore, sono per pochi eletti. Che si tratti di veicoli con motore a combustione interna o con trazione a vapore, auto elettriche o a benzina e diesel, stiamo comunque parlando di prodotti estremamente costosi, destinati a una classe sociale decisamente danarosa. Le automobili sono appannaggio dei ricchi. Per le strade circolano molti più cavalli, come sottolinea Ken Gross, direttore del Peterson Automotive Museum di Los Angeles. Le strade brulicavano di carrozze tirate dai cavalli. Provate a guardare una strada moderna e pensate di sostituire ciascuna auto con una carrozza trainata da uno o più cavalli. Doveva essere uno spettacolo pazzesco. Un uomo sta proprio osservando la via che si trova davanti a casa sua. Sembra più una pista di corse equestri che non una strada. È piena di cavalli che nitriscono, si imbizzarriscono, si fermano e non vogliono più andare avanti, spaventati dal caos e dal rumore. Di macchine ne passano davvero poche, troppo poche per i suoi gusti, visto che sono la sua vita. Il suo nome è già legato a quella nascente industria automobilistica destinata a segnare le esistenze di tutti. Si chiama Henry Ford. Henry Ford. Il pensiero di come riuscire a trasformare l'automobile da oggetto di lusso per pochi a bene di consumo accessibile a tutti lo assilla da anni. Greenfield Township è un delizioso sobborgo di Detroit, dove la vita scorre tranquilla nel verde della bellissima campagna. William Ford, di origine irlandese, e Mary Littlegott, figlia di immigrati belgi, hanno una stupenda fattoria dove tirano su i 5 figli. Henry è il più grande e ha un'innata passione per tutto quello che è meccanico. Per il suo 15° compleanno il padre gli regala un orologio da tasca. Ogni altro ragazzo della sua età sarebbe felicissimo di ricevere un regalo simile. In quegli anni, stiamo parlando del 1878, è un lusso un oggetto del genere. Ogni altro ragazzo guarderebbe e riguarderebbe il suo orologio, tenendolo come il più caro dei tesori e facendo attenzione a non romperlo, ma non Henry. Felice come non mai, il giovinetto si rinchiude in camera sua e inizia a smontare l'orologio. Quando ha finalmente tolto anche l'ultima vite e ha trasformato il regalo del padre in un ammasso apparentemente in forme di piccole parti metalliche, torna in salotto. I genitori sono sgomenti e stanno per sgridarlo come non è mai accaduto loro di fare, quando Henry, con una velocità e maestria da orologiaio consumato, rimonta perfettamente il tutto e mostra con orgoglio l'orologio funzionante. Nonostante questa sua propensione per la meccanica, il padre vorrebbe che si occupasse della fattoria di famiglia, ma lui non ne vuole neanche sentir parlare. Anni dopo, annoterà la cosa nelle sue memorie. Non ho mai avuto un amore particolare per la fattoria e per il lavoro che faceva mio padre. In realtà era la mamma della fattoria che amavo immensamente. Henry Ford fa riferimento a sua madre, una donna forte e affettuosa che egli ama teneramente. Tanto che alla sua morte decide di lasciare la casa paterna per la grande nostalgia che gli provoca. È così che il giovane Henry, ad appena 16 anni, approda a Detroit, dove diventa apprendista macchinista prima da Flower & Bros e poi alla Detroit Dry Dock, manifatturiera di motori navali, e infine alla Westinghouse Company, dove lavora ai motori a vapore. La sua vita è quella, non ne ha dubbi. I motori sono la sua passione, tutto il suo mondo. È molto bravo, dotato naturalmente. Per lui nessun motore ha segreti, può smontarlo e rimontarlo in un tempo record, che per molti suoi colleghi appare una follia. Ogni pezzo ha il suo posto, e c'è un posto per ogni pezzo, in una logica infallibile. Henry Ford è un giovane meccanico che arriva a Detroit dalla campagna. Suo padre ha una fattoria e vorrebbe che lui lavorasse nell'azienda agricola di famiglia. Ma Henry non è interessato. La sua passione sono i motori. Dopo alcuni anni di apprendistato riesce a impiegarsi come ingegnere alla Edison Illuminating Company e ha la fortuna di conoscere di persona Thomas Alva Edison. Il grande scienziato lo sprona a seguire la sua passione e a continuare negli esperimenti che sta portando avanti sul motore a benzina. Grazie a questi incoraggiamenti, Henry ha un'idea rivoluzionaria. Inventa un quadriciclo, prende le ruote di due biciclette e le monta insieme su una semplicissima intelaiatura che viene mossa da un motore a etanolo. Nel retro della sua casa di Detroit, in Begley Street, al numero 58, monta questo strano prototipo e poi chiama sua moglie Clara e il figlioletto Edsel, di appena 3 anni. È il 4 giugno del 1896, una data fondamentale nella storia dell'automobile. Mentre osserva il volto sorpreso della moglie e il divertimento del figlio alla vista di quella strana bicicletta che va senza bisogno di pedalare, Henry si convince che è ora di darsi anima e corpo a quell'impresa, forse un po' folle, sicuramente pionieristica, che rappresenta l'inizio della grande industria automobilistica. La sua intuizione più grande è il concetto della standardizzazione, come ricorda il professor Stephen Mayer della University of Wisconsin. La standardizzazione è stata una componente fondamentale con conseguenze inimmaginabili. Era l'essenza di come le automobili dovevano essere costruite. Quello che fece Ford fu decidere subito che le sue auto sarebbero dovute essere costruite in maniera standard. Tutto l'intero processo produttivo doveva avvenire così. Dobbiamo ricordare, e per noi oggi è difficile crederlo, che in quegli anni tutto viene costruito a mano, singolarmente. Ciascuna vettura viene assemblata dall'inizio alla fine rigorosamente a mano e non si inizia un nuovo esemplare prima di aver finito quello che si sta costruendo. E questo comporta tempi lunghi e costi altissimi. Ford invece ha un sogno: costruire l'auto per tutti, che costi poco e abbia buone prestazioni, un'auto che rivoluzioni la società. Per realizzare questo sogno il primo passo è creare un'azienda. La Ford Motor Company viene quindi fondata il 16 giugno 1903, insieme a una dozzina di investitori che credono ciecamente nelle potenzialità del giovane imprenditore. Per l'occasione Henry costruisce una nuova auto a scopo pubblicitario. La sta descrivendo ai suoi soci, che ha radunato per una dimostrazione sulla superficie ghiacciata del lago St. Clair, a una decina di chilometri da Detroit. È il 12 gennaio del 1904. È una vettura molto veloce. Intendo lanciarla alla massima velocità sulla superficie del lago. Il ghiaccio attenua l'attrito e ho la speranza di battere il record di velocità su terra. Henry si mette alla guida. È decisamente emozionato. Il momento è forse uno dei più importanti della sua vita. Sì, è vero che ha trovato parecchi soci sostenitori, persone che si sono fidate di lui, ma tutto sommato lo hanno fatto solo sulla carta. Questa è la prima vera occasione di dimostrare a tutti quello che vale. Ecco perché il cuore gli batte all'impazzata. Ma il giovane Ford sa bluffare, domina le emozioni e ostenta una certa sicurezza. L'auto romba sotto di lui, il motore non sa stare a freno. Ed ecco che parte. La vettura è lanciata sulla liscia superficie di ghiaccio. La velocità è altissima, ma Henry non perde il controllo e quasi senza sforzo batte il record. 1,5 km in 39 secondi, circa 147 km all'ora, contro i circa 120 del record precedente. È una velocità impensabile per quegli anni. Il pilota Barney Oldfield, famoso automobilista velocista del tempo, quando raggiunge i 90 km all'ora, entra nella storia d'America. Tanto che quando qualcuno corre troppo per le strade si sente dire: «Ma chi ti credi di essere, Barney Oldfield?» Il suo commento al record di Henry Ford è la premessa di una grande amicizia. 147 km all'ora, un vero portento. Caro Harry, questa tua nuova auto, chiamiamola 999, come la locomotiva più veloce d'America. Se me la presti avrai intenzione di girarci per un po'. Tutti devono conoscere quello che hai fatto. La mitica 999, oggi conservata all'Henry Ford Museum di Detroit, compie un lungo percorso per gli Stati d'America, portando in giro per il paese il nome di Ford e facendolo conoscere nella maniera migliore, mostrando dal vivo la sua invenzione e le sue capacità. Il nome di Ford comincia ad essere conosciuto in tutto il paese. È a questo punto che Henry si sente pronto per affrontare la realizzazione del suo sogno, l'auto per tutti. Di prototipi ne ha già realizzati parecchi e a ciascuno di essi ha dato come nome una lettera dell'alfabeto. Il primo si chiama modello A e così via. Ma in realtà non esistono modelli per ogni lettera dell'alfabeto. Quello di cui Henry è certo è che la prossima vettura che realizzerà, quella a cui sta pensando da tutta una vita, si chiamerà Ford T. E sarà un'auto rivoluzionaria, costruita in tutt'altra maniera da come si fa fino a quel momento. Le auto venivano prodotte uno alla volta da abili artigiani che fornivano un'opera di alto livello qualitativo, ma ci impiegavano un tempo lunghissimo, portando i costi a livelli inaccettabili per la maggior parte delle persone. Il professor Miles Fletcher, storico delle invenzioni ed esperto di Ford, ribadisce la natura artigianale delle auto dell'epoca. Ma Henry Ford ha in mente qualcosa di completamente diverso. Se vogliamo che tutti abbiano un'automobile, che tutti se la possano permettere, quell'auto deve costare poco e quindi deve essere fatta in serie. Ma come fare? Ci vorrebbe qualcosa che permettesse un assemblaggio veloce dei vari pezzi, ma non esiste niente del genere agli inizi del Novecento. Non esiste, è vero. Però Henry conosce qualcuno che può aiutarlo. C'è un uomo che ancora non lo sa, ma contribuirà presto a trasformare il sogno di Ford in una solida realtà. Destini incrociati. Per ogni problema esiste sempre una e una sola soluzione ottimale, che può essere raggiunta soltanto mediante l'adozione di metodi scientifici di ricerca. Il potere personale e l'arbitrio scompaiono, sostituiti dal metodo scientifico. È la famosa teoria del One Best Way, ovvero l'unica via migliore sulla quale si fonda il saggio The Principle of Scientific Management, l'organizzazione scientifica del lavoro esposta dall'autore in una monografia che vede la luce nel 1911 negli Stati Uniti. I contenuti di questo saggio vengono espressi dall'autore in diverse occasioni precedenti all'uscita della monografia e trovano un ascoltatore particolarmente attento in Henry Ford. Giovane imprenditore automobilistico di Detroit, Ford ha un sogno che coltiva fin da piccolo: creare l'auto per tutti. È qualcosa di estremamente rivoluzionario in quegli anni a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, anni in cui le auto sono appannaggio di pochi ricchi, costruite a mano in maniera del tutto artigianale. Ma Ford è un rivoluzionario. Lui sa che il suo sogno può essere realizzato. Ha solo bisogno di un aiuto importante per riuscire a costruire le automobili secondo criteri più moderni. Ecco perché gli interessano le teorie della One Best Way. L'articolo che sta leggendo e che ne spiega le linee principali porta una firma che Henry Ford decide di segnarsi subito. Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor. Ha deciso di saperne di più su quest'uomo, le cui teorie sembrano fatte apposta per lui. Frederick Taylor nasce in una ricchissima famiglia quacchera di Filadelfia. Il padre è un famoso avvocato e ha in serbo per il figlio una meravigliosa carriera nel suo studio. La prestigiosa università di Harvard attende il giovane rampollo, ma purtroppo qualcosa non va secondo i piani di padre e figlio. Mentre Frederick sta leggendo il resoconto di un processo che ha visto il padre vincere sui suoi avversari, improvvisamente la vista gli si annebbia e non ci vede più. Il ragazzo si spaventa a morte. Ha solo 18 anni, si sente perduto. Chiama a gran voce la madre, che lo soccorre immediatamente. Ma anche se dopo pochi giorni la vista gli ritorna, l'episodio non può essere sottovalutato. Vengono fatti tutti i controlli possibili, ma la sentenza del medico oculista non lascia molte speranze. La vista di Frederick è molto cagionevole, delicata. Il ragazzo non deve affaticarla, non consiglio di fargli passare ore e ore sui libri. Molto meglio indirizzarlo ad un lavoro fisico che lo irrobustisca. Niente Harvard per Frederick. Il ragazzo però non è uno di quelli che si perdono in autocommiserazioni, né lo sono i suoi genitori. Ci sono altre possibilità, altre strade. Intanto decide di seguire le indicazioni del suo medico, poi si vedrà. Trova quindi lavoro come apprendista operaio in un'azienda idraulica, la Enterprise Hydraulic Works di Filadelfia, dove ha modo di sperimentare di persona cosa significhi il lavoro in fabbrica. È in gamba, molto in gamba. E a soli 22 anni diventa ingegnere capo, anche se lui ingegnere non lo è. Ma a tutto c'è un rimedio. Frederick si iscrive all'università, allo Stevens Institute of Technology. Sì, è vero, il medico gli ha detto di non affaticare la vista sui libri, ma sono passati alcuni anni da quel terribile episodio di cecità momentanea e lui vuole andare avanti con la sua vita. Studia per corrispondenza e a 27 anni si laurea in ingegneria meccanica senza che mai i suoi occhi lo abbiano più tradito. I became an engineer, I built teleporting gear, and I drew all the blueprints alone. Just feel sad I don't have a teleporter exit back home. Home, sweet home, in the country. No demo man or soldiers or spies stepping my sentry. Frederick Winslow Taylor è un giovane ingegnere meccanico di Filadelfia. La sua professione lo porta spesso all'interno dei reparti produttivi delle fabbriche e la sua mente analitica cerca di trovare una soluzione scientifica alle problematiche che ogni giorno deve affrontare. I difetti che Taylor vede e che gli saltano agli occhi quotidianamente sono legati soprattutto alla mancanza di un sistema di regolazione omogeneo e trasparente, all'arbitrio dei responsabili di reparto, allo spreco di risorse, al rallentamento sistematico e intenzionale del lavoro, all'ignoranza dei capi. Frederick Taylor è nel suo ufficio. È molto tardi, ma non può ancora staccare. Sente di dover tracciare una serie di linee guida di comportamento che possono agevolare una produzione più scorrevole, più soddisfacente per operai e datori di lavoro. È così, nel silenzio di una fabbrica vuota, che egli trova le parole giuste per definire la sua idea. One man, one job. One man, one job. Letteralmente, un uomo, un lavoro. Un concetto che oggi, immersi nell'era della specializzazione più estrema, ci pare scontato, ma che all'epoca di Taylor è tutt'altro che un fatto acquisito. Anzi, nelle fabbriche tutti fanno tutto, con grande spreco di energie, tempo e denaro. Domenico De Masi, illustre sociologo del lavoro, commenta il saggio di Taylor, L'organizzazione scientifica del lavoro, con parole entusiastiche. Questo che il lettore ha tra le mani non è un semplice libro, ma una Bibbia laica, anzi, la Bibbia laica, quella che più di ogni altra ha influenzato il destino dell'umanità nel corso del XX secolo. Alcune Bibbie hanno più credenti che praticanti, altre hanno più praticanti che credenti. Gli scritti di Taylor appartengono a questa seconda categoria. Una parte del mondo è cristiana e una parte è musulmana. Una parte del mondo è capitalista, un'altra è comunista. Una parte del mondo è fatta di bianchi e un'altra è fatta di neri. Tutti però indistintamente sono tayloristi. Magari non sanno di esserlo, magari non hanno mai sentito parlare di Taylor, ma sono tayloristi. 24 ore al giorno pensano e si comportano secondo i principi del taylorismo, forse più di quanto farebbe oggi lo stesso Taylor. Dai precetti contenuti in questa Bibbia laica deriva una parte notevole dei vantaggi e degli svantaggi che quotidianamente viviamo. Henry Ford comprende immediatamente che le teorie sull'ottimizzazione del lavoro propugnate da Taylor sono la soluzione ai suoi interrogativi. Come far sì che le sue auto vengano prodotte in serie, riducendo drasticamente i tempi di lavorazione e producendo di più a costi più contenuti? L'idea di Ford di realizzare la macchina per tutti non prevede assolutamente di ridurre la qualità del suo prodotto. Le sue auto devono essere solide e affidabili, non si discute. È nella costruzione delle vetture, nel loro assemblaggio, che va ricercata l'area di risparmio rispetto al lavoro artigianale. E le parole di Taylor sono per lui illuminanti. Si deve arrivare ad un'intima e cordiale collaborazione tra mano d'opera e direzione, convincendo gli operai uno alla volta. E soprattutto, si deve aumentare la ricompensa economica. Guardando i suoi operai che lavorano intorno a una vettura in costruzione, Ford pensa a un alveare. Esempio di massima ottimizzazione del lavoro, la società delle api è straordinariamente organizzata. Ogni individuo fa il suo lavoro e l'insieme, la comunità, ne trae un vantaggio immediato. I suoi uomini perdono troppo tempo a girare intorno alla macchina. A fine giornata, probabilmente, hanno fatto chilometri pur stando sempre lì. Le parole di Taylor continuano a risuonargli nella mente. One man, one job. Ed è così che Henry Ford ha l'intuizione della sua vita. Non sono gli operai che devono muoversi intorno al prodotto facendo di tutto, è il prodotto che deve muoversi davanti agli operai che fanno solo una determinata azione. Nasce così una delle invenzioni fondamentali nella storia dell'uomo, la catena di montaggio. Il professor Abraham Zalsnik della Harvard Business School non ha dubbi sul valore di questa invenzione. Ford ideò la catena di montaggio e un metodo di produzione che in effetti riuscivano nello specifico a creare dei ruoli ben definiti e portarono al moderno concetto di produzione. Ora ciascuno ha il suo ruolo e compie una parte del processo produttivo. Nascono nuove figure professionali, gli operai specializzati e i capi settore, ma l'opera di Ford non si ferma qui. Sempre influenzato da Frederick Taylor, si ricorda molto bene il suo consiglio: gli operai devono guadagnare di più. E lui, che non è uno dalle mezze misure, segue il consiglio del suo collega ingegnere. È così che sconvolge l'intero mercato offrendo agli operai una paga di $5 al giorno quando la media è di $2.50 e fa di più riducendo le ore di lavoro giornaliero da 9 a 8. Più avanti negli anni ridurrà anche i giorni lavorativi, introducendo il sabato libero e portando il monte ore lavorativo da 48 a 40 ore settimanali. Si tratta di innovazioni di cui oggi tutti i lavoratori beneficiano e che segnano il passaggio dal vecchio rapporto datore di lavoro operaio di stampo padronale a quello moderno basato su una equa distribuzione delle competenze. La Ford Model T è la prima autovettura al mondo costruita con la moderna tecnica della catena di montaggio. È una vettura rivoluzionaria, come rivoluzionario è il suo ideatore. Tra poco, qui, a Destini Incrociati. Bound for the USA. Their names were John and William Ford, a father and his son. They went to live near Michigan in a place called Dearborn. Destini incrociati. Costruirò una macchina per tutti. Sarà abbastanza grande per una famiglia, ma abbastanza piccola da poter essere gestita da un singolo individuo. Sarà costruita con i materiali migliori, dai migliori uomini che io possa ingaggiare, seguendo le direttive più semplici che la moderna ingegneria possa inventare. Ma sarà così economica che qualsiasi uomo con un normale stipendio possa acquistarla e godersi con la sua famiglia in santa pace i grandiosi spazi aperti creati dal Signore. Sono le parole di Henry Ford, imprenditore automobilistico statunitense, che nel 1908 decide di realizzare una vettura per tutti. Fino a quel momento le automobili sono appannaggio delle classi più ricche e benestanti, in quanto costosissime. Vengono infatti realizzate totalmente a mano, in maniera artigianale, impiegando tempi lunghissimi di produzione. Ma Henry Ford rivoluziona completamente il mercato grazie alle intuizioni di Frederick Taylor. Teorizzatore dell'ottimizzazione del lavoro che espone nella sua opera L'organizzazione scientifica del lavoro, Taylor suggerisce a Ford una serie di soluzioni che permettono all'imprenditore di realizzare il suo sogno. L'automobile per tutti, costruita in serie e pertanto molto meno costosa. Invece di far girare gli operai intorno alla vettura in fase di assemblaggio, con un evidente spreco di tempo e di energie, Ford realizza una sorta di tappeto mobile sul quale fa scorrere le auto, mentre gli operai rimangono fermi al loro posto e compiono sempre la stessa operazione. È la nascita della catena di montaggio e del lavoro altamente specializzato, come ricorda molti anni dopo in una intervista Tom Jelly, operaio di Ford. Era incredibile vedere come si muovevano le varie parti da montare. Invece di essere noi che le andavamo a prendere, ci arrivavano da questi nastri trasportatori. Non perdevamo più tutto quel tempo e facevamo lavorare solo il cervello, non più le gambe. Henry Ford si trova fuori del Piquet Plant, lo stabilimento alle porte di Detroit, dove è in corso la fase finale dell'assemblaggio della sua nuova fiammante straordinaria vettura, la Ford Model T. È il 27 settembre del 1908, una data che può essere senz'altro considerata storica. La prima automobile al mondo costruita con le nuove tecniche in una catena di montaggio vede la luce. Quando la prima Model T esce nel cortile antistante la fabbrica, per Henry si tratta veramente del coronamento di un sogno. È nata l'auto per tutti. Dotata di un motore a quattro cilindri con trazione posteriore e cambio a due marce più la retromarcia, la Model T ha i freni a tamburo e l'avviamento a manovella, ma la sua caratteristica più incredibile è la semplicità di utilizzo. Basti pensare che Henry Ford insiste perché le ruote siano provviste di raggi rigorosamente in legno, per far sì che possano essere riparati facilmente dagli stessi artigiani che riparano quelli delle carrozze, per il momento ancora diffusissime. My bucket tea, bucket tea, bucket tea, my bucket tea, bucket tea, bucket tea, bucket tea. La Ford Model T è la prima autovettura della storia venduta a un prezzo decisamente popolare, circa $400, cifra resa possibile in quanto prodotta su vasta scala, utilizzando la catena di montaggio e impiegando parti intercambiabili che possono essere sostituite in caso di rottura. Nei primi anni di produzione, per velocizzare la consegna, le auto sono fornite di un solo colore, il nero, tanto che diviene famosa in tutto il paese la frase di Henry Ford a riguardo. Ogni cliente può ottenere una Ford Model T colorata di qualunque colore desideri, basta che sia nero. Il successo di questa vettura è straordinario. Si calcola che nel decennio 1910-1920 la metà delle auto circolanti nel mondo è costituita da Ford T. La mitica Lizzie, come gli americani la ribattezzano, diventa parte integrante della vita di milioni di famiglie e contribuisce a modificarne radicalmente lo stile di vita. Esce di produzione nel 1927, dimostrando una longevità del tutto unica nel panorama dei prodotti di natura tecnologica che normalmente vengono superati nel giro di molto meno tempo e ne vengono venduti oltre 15 milioni di esemplari. Mentre Frederick Taylor scrive il suo libro Organizzazione scientifica del lavoro, che diventa il testo base della sua teoria sul management moderno, dando vita a quello che è conosciuto con il nome di Taylorismo, Henry Ford prosegue con la produzione di vetture sempre più adeguate agli stili di vita che si modificano e a sua volta dà origine al cosiddetto Fordismo, quella particolare forma di produzione basata sull'utilizzo della tecnologia al fine di incrementare la produttività. A 75 anni, Henry Ford lascia lo scettro del comando al suo unico figlio, Edsel, il quale però solo 5 anni dopo muore a causa di un tumore. Ford è distrutto dal dolore, ma non può arrendersi. A 80 anni suonati ritorna alla guida dell'azienda che dirige fino alla sua morte, 4 anni dopo, lasciandola alla conduzione dei nipoti. La Ford è storicamente considerata come l'azienda che aprì il mondo dei trasporti alla gente comune. E francamente, anche per il futuro, io vorrei che fossimo conosciuti come coloro che reinterpretarono questo grande retaggio che ci ha lasciato il mio bisnonno. Bill Ford, pronipote di Henry, oggi executive chairman della Ford Motor Company, sente la grande responsabilità, ma anche l'immenso valore di quello che ha costruito suo bisnonno oltre 100 anni fa. Un'eredità che evidentemente permea l'azienda ancora oggi, come sostiene Alan Mulally, presidente e CEO della Ford Motor Company. Io sono molto più eccitato oggi di quando sono arrivato in Ford, e la ragione è perché ho avuto modo di respirare quella certa aria che si respira qui e che deriva direttamente dalle radici di questa azienda, da quei principi sui quali si fondò il lavoro di Henry Ford. Alan Mulally raccoglie pienamente l'eredità del fondatore, applicando i principi che hanno permesso all'automobile di entrare a far parte della vita di ogni persona, indipendentemente dalle differenze sociali ed economiche. È per questo che il sogno di Henry Ford può dirsi certamente realizzato. L'auto per tutti, quella deliziosa Lizzie che ha cambiato per sempre il panorama delle nostre città e delle nostre vite, sarà per sempre considerata una delle più grandi invenzioni della storia dell'umanità, tra quelle che hanno contribuito a rendere le nostre vite migliori, più comode e più facili. See my people, well here's my theory of what this country is moving toward. Every worker a cog in motion, well that's the notion of Henry Ford. One man tightens and one man ratchets and one man reaches to pull one cord. Car keeps moving in one direction.